Capitolo 6. Jarvis Morrow accompagnò Anna a casa dopo la cerimonia d'inizio dell'anno scolastico e le narrò le sue pene. Dovrai deciderti a fuggire con lei, Jarvis. È quello che dicono tutti. Come regola non sono favorevole alla fuga d'amore. Sembro un insegnante con 40 anni di esperienza sulle spalle, pensò Anne sorridendo tra sé. Ma ogni regola ha le sue eccezioni. Bisogna essere in due a decidere, Anne. Non posso fuggire da solo. Dovi ha tanta paura del padre che non riesco a convincerla e non sarebbe una vera fuga. Una sera di queste verrebbe a casa di mia sorella Giulia. Sai che è sposata e si chiama Stevens. Farei venire il pastore, ci sposeremo in modo più che regolare e andremo a trascorrere la luna di miele dalla zia Berta a Kingsport. È semplicissimo. Ma non riesco a convincere Dovi a rischiare. Poverina, è ormai tanto abituata ad assecondare i capricci e le manie del padre che non ha più un briciolo di forza di volontà. Ma dovrai convincerla, Jarvis. Per Diana, non sai quanto ci ho provato, Ann. L'ho implorata fino a diventare paonazzo. Quando è con me le strappo una mezza promessa, ma appena torna a casa mi manda a dire che non può. Ti sembrerà strano, Ann, ma Dovi vuole davvero bene al padre e non sopporta l'idea di non essere perdonata da lui. Le devi dire che deve scegliere tra il padre e te. E se scegliesse lui? Non credo. Non si può mai dire, disse Jarvis con pessimismo. Ma una decisione va presa e presto. Non posso continuare così per sempre. Sono pazzo di Dovi, lo sanno tutti a Summerside. È una rosellina che non arrivo a cogliere. Ma io devo arrivare a coglierla, Ann. La poesia è bella solo sui libri e in questo caso non ti aiuterà, Jarvis. Disse Anne con calma. Sembra un commento di Rebecca a Dio, ma è vero. In questa faccenda, invece, hai bisogno di puro e semplice buonsenso. Di' a Dovi che sei stanco di tanti tentennamenti e che deve prendere o lasciare. Se non ti vuole abbastanza bene da lasciare il padre per te, tanto vale che tu lo sappia subito. Jarvis gemette. Oh, Anne, non sai cosa vuoi dire stare tutta la vita sotto il giogo di Franklin Westcott. Non hai alcuna idea di come sia quell'uomo. Beh, farò un ultimo e definitivo tentativo, come dici tu. Se Dovi tiene davvero a me, verrà con me, e se a me non ci tiene, meglio che io lo sappia. Sto incominciando a pensare di essermi reso piuttosto ridicolo. Se è questo che incominci a pensare, riflette Anne, è meglio che Dovi stia in guardia. La stessa Dovi arrivò qualche sera dopo a Windy Willows per confidarsi con Anne. Cosa devo fare, Anne? Cosa posso fare? In pratica Jarvis vuole che fuga con lui. La settimana prossima andrà una sera a Charlottetown per una cena tra massoni e quella sarebbe l'occasione buona. Zia Maggie non sospetterà di niente. Jarvis vuole che vada a casa della sorella Stevens e che mi sposi lì. E perché no, Dovi? Oh, Anne, credi che sia giusto? Dovi alzò il viso dolce e implorante. Oh, ti prego, decidi per me. Mi sembra di impazzire. La voce di Dovi assunse un tono lacrimevole. Oh, Anne, tu non conosci mio padre, odia Jervis. Non so perché. Ma dimmi com'è possibile odiare Jervis? Quando è venuto da me la prima volta, papà gli ha vietato l'accesso in casa e gli ha detto che gli avrebbe scatenato contro il cane se si fosse presentato ancora. E dire che abbiamo un grosso bulldog. Sai che non mollano più la presa quando azzannano qualcuno e non mi perdonerà mai se fuggirò con Jervis. Devi scegliere, Dovi. Anche Jarvis me l'ha detto, disse piangendo Dovi. Oh, è stato inflessibile, non l'avevo mai visto così. Oh, Anna, io non posso vivere senza di lui. E allora vivi con lui, cara, la mia ragazza. E non chiamarla fuga la tua. Venire qui in città, a Summerside, e sposarti in casa di parenti non è una fuga d'amore. Ma per papà sì! Disse Dovi, ricacciando indietro un singhiozzo. Ma seguirò il tuo consiglio, Ann. Sono certa che non mi consiglieresti niente che non sia giusto. Dirò a Jarvis di procurarsi la licenza e io andrò da sua sorella la sera che papà sarà a Charlottetown. Jarvis comunicò ad Ann con esultanza che Dovi aveva finalmente ceduto. Ci incontreremo in fondo al viale martedì sera. Non vuole che vada fino a casa per paura che mi veda zia Maggie. Faremo un salto da Giulia e ci sposeremo in 448. I miei parenti ci saranno tutti, così il mio tesoro non si sentirà sola. Franklin Westcott mi aveva detto che mai e poi mai avrei avuto sua figlia, gli dimostrerò che sbagliava. Capitolo 7. Il martedì seguente era una tetra giornata di fine novembre. Freddi piovaschi accompagnati da raffiche di vento investivano le colline. Il mondo appariva una scena triste e desolata, intravista dietro un velo grigio. La povera Dovi non ha una bella giornata per le nozze, pensò Ann. E se poi, si disse tremando e rabbrividendo, se poi dovesse andar male sarebbe colpa mia. Dovi non avrebbe mai accettato se non glielo avessi consigliato io. E se Franklin Westcott non la perdonasse? E ora basta, Anna Shirley. Il tempo ti fa vedere tutto nero. In serata la pioggia cessò, ma l'aria era fredda e pungente e il cielo andava caricandosi di nubi. Ann era nella torretta e correggeva dei compiti mentre Dusty Miller dormiva raggomitolato sotto la stufa. A un tratto, dal portone d'ingresso giunse un sonoro rimbombo. Ann corse da basso e Rebecca Dew si affacciò allarmata sulla soglia della propria camera da letto. Ann le fece cenno di rientrare. «C'è qualcuno al portone d'ingresso?» disse Rebecca con voce sorda. «Bah, tutto bene, cara Rebecca, anzi credo che vada tutto male. Comunque è solo Jarvis Morrow. L'ho visto dalla finestra d'angolo della torretta e so che vuole parlarmi. Jarvis Morrow?» Rebecca Dew ritornò dentro e chiuse la porta. Questa è l'ultima goccia. Jarvis, che cosa c'è? Dovi non è venuta, disse Jarvis fuori di sé. L'abbiamo aspettata per ore. C'è il pastore, i parenti e Giulia ha preparato la cena e Dovi non è arrivata. Sono quasi diventato pazzo ad aspettarla in fondo al viale. Non ho osato andare fino a casa sua perché poteva essere successo qualcosa. Magari è tornato quel tiranno di Franklin Westcott, magari zia Maggie l'ha chiusa a chiave da qualche parte, ma io devo sapere qualcosa. Ann, vai tu a Elmcroft a vedere perché non è venuta. E perché vuoi mandarmici a me? Disse Ann con molta perplessità e poca grammatica. Ah sì, devi andarci tu, non mi fido di nessun altro, e tu sei l'unica che sa tutto. Oh, Ann, non abbandonarmi proprio ora, ci hai sempre sostenuto fin qui. Dovi dice che sei l'unica vera amica che ha. Non è tardi, sono solo le 9. Vai ora a farmi sbranare dal bulldog, disse Anna ironica. Oh, quel vecchio cagnaccio, disse Jarvis con disprezzo. Non farebbe bau nemmeno a un ladro. Non penserai che ho paura del cane, vero? E poi di notte lo tengono chiuso, ma non voglio procurare altri guai a Dovi se a casa dovessero aver scoperto tutto. Ann, ti prego. Ormai sono in ballo, disse Ann, arrendendosi con una scrollata di spalle. Si fece accompagnare da Jarvis fino all'imboccatura del lungo viale di Elmcroft, ma non gli permise di andare oltre. Come hai detto prima, complicherebbe le cose nel caso che il padre di Dovi fosse tornato a casa. Ann si avviò speditamente lungo il viale fiancheggiato da alberi. Di quando in quando la luna faceva capolino tra le nuvole sospinte dal vento, ma per lo più regnava un'oscurità totale e il pensiero del cane, la tormentava un poco. C'era una sola luce accesa a Elmcroft ed era quella della cucina. Zia Maggie aprì la porta di servizio ad Ann. Zia Maggie, sorella di Franklin Westcott, era una vecchina curva e rugosa, non certo un'aquila, a quanto si diceva in giro, ma ottima massaia. Zia Maggie, Dovi è a casa? Dovi è a letto, disse con flemma zia Maggie. A letto? Sta male? Che io sappia, no, sembrava sulle spine quest'oggi. Dopo cena mi dice che è stanca, sale di sopra e buonanotte. Devo vederla un momento solo, zia Maggie, ho bisogno di un'informazione importante. Meglio che vada su, allora. Prima porta a destra, appena in cima. Zia Maggie fece un vago gesto verso l'alto e se ne tornò in cucina con andatura dondolante. Ann bussò sbrigativamente alla porta ed entrò senza attendere risposta. Alla luce tenue di una candela scorse Dovi seduta sul letto in lacrime, ma quelle lacrime riuscirono solo a esasperarla. Dovi Westcott, hai dimenticato che hai promesso di sposare Jarvis Morrow questa sera? No, no, singhiozzò Dovi. Oh, Anna, sono tanto infelice. È stata una giornata orribile. Tu non puoi capire quello che ho passato. So quello che ha passato il povero Jarvis aspettandoti 2 ore là fuori, al freddo e sotto la pioggia, disse Anna spietatamente. È davvero molto arrabbiato, Anna. Quanto basta per poterlo notare, con tono pungente. Oh, Anna, mi è venuta paura. Non ho chiuso occhio ieri notte e non ce l'ho fatta, non ce l'ho proprio fatta. Io C'è qualcosa di ignobile nella fuga d'amore, Ann, e dovrei rinunciare ai regali. Beh, a quasi tutti. Avevo sempre sognato di sposarmi in chiesa con un bel addobbo, il velo bianco e l'abito e scarpette d'argento. Dovi Westcott, scendi da quel letto immediatamente, vestiti e vieni con me. Oh, Anne, è troppo tardi ormai. Non è ancora troppo tardi ed è l'ultima possibilità. Dovi, lo capisci anche tu, se hai un briciolo di buonsenso, capisci che Jarvis Morrow non ti rivolgerà più la parola se gli farai un tiro simile. Oh, Anne, mi perdonerà quando gli spiegherò il motivo. Eh no. Invece no, conosco bene Jarvis Morrow, non si lascerà tenere in eterno sulla corda. Dovi, devo proprio tirarti giù di peso da quel letto? Dovi rabbrividì e sospirò. Non ho l'abito adatto. Ah, oh, hai un mucchio di begli abiti, mettiti quello di taffarosa. E non ho il corredo, i Morrow me lo rinfacceranno sempre. Potrei procurartelo dopo, Dovi. Ma tutte queste cose non le avevi messe in conto prima? No, no, è questo il guaio. Ho incominciato a pensarci solo ieri sera e mio padre. Tu non sai com'è mio padre, Ann. Dovi, ti do 10 minuti di tempo per vestirti. Dove si vestì nel tempo assegnato? Quest'abito mi sta diventando troppo stretto, disse tra i singhiozzi, mentre Ann l'aiutava ad abbottonarlo. Se ingrasserò ancora, Jarvis, non mi vorrà più bene. Vorrei essere alta, magra e pallida come te. Oh, Ann, e se zia Maggie ci sente? Non ci sentirà, è chiusa in cucina e sai che è un po' sorda. Eccoti, cappello e cappotto. Ti ho messo qualcosa in questa borsa da viaggio. Ho il cuore che mi batte all'impazzata. Non sono un mostro, Ann. Sei un amore, disse Ann con sincerità. La pelle di seta di Dovi era bianca e rosa e il pianto aveva reso più belli i suoi occhi. Ma al buio Jarvis non poteva vederli e, seccato con la sua dorata durante il tragitto, mantenne un atteggiamento distaccato. Per amor del cielo, Dovi, non fare quella faccia spaventata solo perché devi sposarmi, disse con insofferenza quando la vide scendere le scale di casa Stevens. E non piangere, che poi ti viene il naso rosso. Sono quasi le 10 e dobbiamo prendere il treno delle 11. Appena il matrimonio con Jarvis diventò una cosa fatta, Dovi si calmò d'incanto. Sul suo viso apparve quella che Anne scrisse con un po' di malignità in una lettera a Gilbert come l'aria da luna di miele. Mia cara Anne, dobbiamo tutto a te, non lo dimenticheremo mai, vero Jarvis? Oh Anne, cara, ti dispiacerebbe farmi un altro favore? Da tu la notizia a mio padre. Rientrerà domani nel tardo pomeriggio e bisogna pure che qualcuno glielo dica. Forse tu potresti ammansirlo, ammesso che sia possibile. Ti prego, fa del tuo meglio per convincerlo a perdonarmi. Ann, in quel momento, sarebbe stata più propensa a farsi ammansire che ad ammansire. D'altra parte, sentiva il peso della responsabilità dell'accaduto e acconsentì alla richiesta. Oh, diventerà proprio una bestia, però non potrà certo ammazzarti, disse Dovi per consolarla. Oh, Ann, non puoi capire come mi sento sicura con Jarvis. Quando Ann tornò a casa, Rebecca Dew era in uno stato di curiosità che rasentava la frenesia. In camicia da notte, con un panno di flanella in testa, seguì Ann nella torretta e ascoltò tutta la storia. Beh, signorina Shirley, ora lei mi dirà che questa è la vita, disse con tono ironico. Ma sono proprio contenta che una volta tanto Franklin Westcott abbia avuto quel che si merita. E vedrà che sarà contenta anche la vedova del capitano MacCumber. Ma non vorrei essere io a dargli la notizia. Andrà su tutte le furie e straparlerà. Al posto suo, io stanotte non riuscirei a chiudere occhio, signorina Shirley. Credo anch'io che non sarà un'esperienza piacevole, ammise Anne mestamente. Capitolo 8. L'indomani pomeriggio, Anne si recò a piedi a Elmcroft. Il paesaggio immerso nella nebbia di novembre appariva irreale e le comunicava un senso di sconforto. La sua non si poteva certo dire una gita di piacere. Era pur vero che, come le aveva detto Dovi, Franklin Westcott non poteva ammazzarla, ma Anne non temeva la violenza fisica, anche se, a sentire quel che si diceva di lui, magari qualcosa addosso gliel'avrebbe buttata. Avrebbe balbettato per la rabbia? Anne non aveva mai visto nessuno balbettare per la rabbia e l'idea di quello spettacolo non l'attraeva. Sicuramente però si sarebbe servito del suo famigerato sarcasmo, e il sarcasmo era l'arma che Anna temeva di più, sia in un uomo che in una donna. Ne veniva sempre colpita, e le ferite morali che ne ricavava stentavano a rimarginarsi. Ricordo che zia Gemsina diceva: «Beato chi non ha da portare cattive notizie». Anche in questo era saggia. Oh, ecco mi è arrivata. Elmcroft era una casa vecchio stile, con una torretta e quattro angoli e il tetto sormontato da una cupola tonda. E sui gradini, davanti all'ingresso, c'era il cane. «Non mollano più la presa quando azzannano qualcuno», ricordò Anna. «Non le conveniva entrare dalla porta di servizio?» Ma il pensiero che Franklin Westcott stesse osservandola da una finestra le diede coraggio. Non gli avrebbe dato la soddisfazione di farsi vedere spaventata da quel cane. Risolutamente, a testa alta, salì i gradini, passò accanto al cane e suonò il campanello. Il cane non si mosse. Anna girò l'occhio e vide che dormiva. Franklin Westcott non era a casa, le dissero, ma sarebbe tornato a momenti con il treno da Charlottetown. Zia Maggie introdusse Anna nella biblioteca, come la chiamò, e la lasciò sola. Il cane le aveva seguite, entrò e si sistemò ai piedi di Anna. Anna trovò la biblioteca di suo gusto. Era una stanza allegra e vissuta, con un fuoco vivace che ardeva nel focolare e pelli d'orso stese sul logoro tappeto rosso. Con ogni evidenza, Franklin Westcott si trattava bene quanto a pipe e libri. Poco dopo lo sentì arrivare. Appese cappello e cappotto nell'ingresso e si fermò sulla soglia della biblioteca con un viso atteggiato a ostinato cipiglio. Anna ricordò che al primo incontro le aveva dato l'impressione di un pirata gentiluomo e quella stessa impressione si rinnovò ora. «Oh, è lei!» disse Franklin Westcott in tono rude. «E allora cosa vuole?» Non le aveva nemmeno teso la mano. Anna pensò che il cane era decisamente più educato del padrone. «Signor Westcott, la prego di ascoltarmi con pazienza prima di... Sono paziente, pazientissimo, dica pure!» Ann concluse che era inutile prendere tempo con un uomo come Franklin Westcott. «Sono venuta a dirle», annunciò con fermezza, «che Dovi si è sposata con Jarvis Morrow». Poi restò in attesa del cataclisma. Niente. Franklin Westcott non mosse un muscolo del volto magro e scuro. Entrò e si sedette di fronte ad Ann su una poltroncina di pelle dalle gambe arcuate. «Quando?» disse. «Ieri sera in casa della sorella di lui», disse Anna. Franklin Westcott la guardò per un momento con gli occhi bruno-giallognoli infossati sotto sporgenti sopracciglia brizzolate. Anna si chiese per un attimo come doveva essere da bambino piccolo. Poi Franklin Westcott gettò all'indietro la testa e scoppiò in una delle sue risate silenziose. «Non se la prenda con Dovi, signor Westcott», disse Ann con calore, ritrovando l'uso della parola ora che il più era fatto. «Lei non ne ha colpa, ci scommetterei che no», disse Franklin Westcott. Non c'era una punta di sarcasmo in quella frase? «No, è stata tutta colpa mia», disse Ann con coraggio e senza mezzi termini. «L'ho consigliato io di sposarsi, l'ho costretta, quindi la prego di perdonarla, signor Westcott». Franklin Westcott prese con calma una pipa e incominciò a riempirla. «Signorina Shirley, se lei è riuscita a far fuggire Sibyl con Jarvis Morrow, ha compiuto un'impresa che ritenevo impossibile. Incominciavo a credere che a mia figlia mancasse il fegato per farlo. Allora io avrei dovuto rimangiarmi la parola. E sa Dio se a noi Westcott piace rimangiarci la parola. Lei mi ha salvato la faccia, signorina Shirley, e gliene sono profondamente grato». Calò un silenzio totale. Franklin Westcott si diede a pressare il tabacco nella pipa, osservando Anna con un lampo di malizia nello sguardo. Anna era rimasta interdetta e non sapeva cosa dire. «Immagino che lei sia venuta qui piena di paura all'idea di darmi la terribile notizia», disse Franklin Westcott. «Sì», disse Anna un po' seccamente. Lui ridacchiò in silenzio. «Oh, non era il caso. Non avrebbe potuto portarmi notizia più gradita. Diamine, avevo già scelto Jarvis Morrow per Sibyl fin da quando erano piccoli. Quando gli altri ragazzi hanno incominciato a starle dietro, li ho fatti filare. Così Jarvis l'ha subito trovata interessante. e avrebbe fatto vedere lui a quel vecchiaccio di che cosa era capace. Ma aveva tanto successo con le ragazze che non riuscivo a credere ai miei occhi quando si è davvero innamorato di mia figlia. Allora ho preparato accuratamente il mio piano strategico. Conosco alla perfezione i Morrow, signorina Shirley. Sono una famiglia come si deve, ma ai loro uomini non interessano le facili conquiste. E si intestano su una cosa se sanno che non possono averla. Sono dei bastian contrari. Il padre di Jarvis ha portato alla disperazione tre ragazze perché le famiglie gliele avevano gettate tra le braccia. E nel caso di Jarvis sapevo esattamente quel che sarebbe successo. Sibyl avrebbe perso la testa per lui e lui si sarebbe presto stancato. Sapevo che avrebbe smesso di corteggiarla se non avesse trovato opposizioni. Così gli ho vietato l'accesso in casa, ho vietato a Sibyl di frequentarlo e ho sostenuto alla perfezione il ruolo del genitore tirannico. E non mi vengono a parlare del fascino di una possibile conquista. Non è niente a confronto del fascino di una conquista impossibile. Tutto è andato secondo i miei piani, ma mi sono scontrato con la mancanza di carattere di Sibyl. È una brava figliola, ma carattere non ne ha. Ormai pensavo che mai avrebbe avuto il fegato di sposarlo contro la mia volontà. E se ora ha ripreso fiato, mia cara ragazza, mi narri tutta la storia. Anna aveva ritrovato il senso dell'umorismo. Non poteva rinunciare all'occasione di ridere, anche se di se stessa, e a un tratto si sentì a proprio agio in compagnia di Franklin Westcott. Restò ad ascoltarla, tirando con gusto tranquille boccate dalla pipa, e al termine annuì, compiaciuto. Ora so di doverle più di quanto non pensassi. Sibyl non avrebbe mai avuto il coraggio di farlo se non ci fosse stata lei. E se conosco bene la ragazza, Jarvis Morrow non avrebbe rischiato di farsi prendere in giro un'altra volta. L'ho proprio scampata bella. D'ora in poi sono ai suoi comandi. Ha avuto un bel fegato lei a venire qui, se credeva a tutte le storie che girano sul mio conto. Chissà quante gliene hanno raccontate, eh? Anne annuì. Il bulldog aveva messo la testa in grembo e russava beatamente. L'opinione corrente è che lei è irascibile, bisbetico e intrattabile, disse candidamente. E le avranno detto che sono un tiranno, che ho fatto fare una vita d'inferno a mia moglie, buonanima, e che in casa uso il pugno di ferro. Sì, ma ci ho creduto con beneficio di inventario, signor Westcott. Dovi non poteva volerle tanto bene se era tremendo come la dipingevano. Lei è una ragazza sensata. Mia moglie è stata felice con me, signorina Shirley, e quando la vedova del capitano McCumber le dirà ancora che l'ho fatta morire a furia di prepotenze, le dia una lavata di capo. Mi scusi l'espressione, e Molly era bella, più bella di Sibyl. Che pelle bianca e rosa aveva, che capelli castano dorati, che dolci occhi azzurri, era la donna più bella di Summerside. Non poteva essere che così. Non avrei potuto sopportare che un altro entrasse in chiesa con una moglie più bella della mia. E a casa comandavo da uomo, ma non da tiranno. Oh, certo, avevo i miei momenti di nervoso di quando in quando, ma Molly non ci faceva caso dopo i primi tempi. Un uomo avrà ben diritto di bisticciare con la moglie qualche volta. Le donne si stancano dei mariti monotoni. Poi, passati 5 minuti, le regalavo un anello, una collana, qualche fronzolo. A Summerside non c'era donna con gioielli più belli. Bisogna che li tiri fuori per darli a Sibyl. Anne infierì. Che mi dice delle poesie di Milton? Le poesie di Milton? Ah, già, ma non era Milton, era Tennyson. Adoro Milton, ma non sopporto Tennyson. È di un sentimentalismo nauseante. Una sera gli ultimi 2 versi di Enoch Arden mi hanno fatto talmente infuriare che ho buttato il libro dalla finestra. Ma il giorno dopo sono andato a riprenderlo per salvare la canzone della tromba. Basterebbe quella a farmi perdonare tutto il resto. E poi non è finito nel laghetto delle ninfee di George Clark. Quella è un'aggiunta inventata dalla vecchia Prouty. Non vorrà già andare. Rimanga a mangiare un boccone con un vecchietto abbandonato dall'unica figlia. Oh, sono molto spiacente, signor Westcott, ma questa sera a scuola è in programma una riunione tra docenti. Beh, allora verrà quando tornerà Sibyl. Dovrò pure organizzare una festa per quei ragazzi. Diamine, è stato proprio un bel sollievo per me. Lei non immagina quanto mi sarebbe seccato dovermi rimangiare la parola e dirgli prenditela. Ora devo solo fingere di essere straziato e rassegnato e di perdonarla a malincuore per amore della madre morta. Oh, reciterò la parte splendidamente. Jarvis non deve sospettare di niente e lei tenga la bocca chiusa. Ci conti, promise Anna. Franklin Westcott l'accompagnò galantemente alla porta e, vedendola andare via, il bulldog si mise a sedere sulle zampe posteriori e uggiolò. Sulla soglia, Franklin Westcott si tolse la pipa di bocca e gliela batté sulla spalla. Se lo ricordi sempre, disse solennemente, ci sono diversi modi per scoiare un gatto. Con il mio, l'animale non si accorgerà mai di aver perso la pelle. E mi saluti tanto, Rebecca Dew. Una buona lana saperla prendere per il verso giusto. Grazie, grazie. Ann si avviò sulla strada del ritorno. La serata era mite, calma, e con l'alzarsi della nebbia e il cambiare del vento, il cielo aveva assunto la tinta verdolina che annuncia il gelo. Mi dicevano tutti che non conoscevo Franklin Westcott, riflette Ann. E avevano ragione, non lo conoscevo, ma nemmeno loro. Beh, come l'ha presa? Si precipitò a chiederle Rebecca Dew, ansiosa di notizie. Ah, oh, non troppo male, tutto sommato, disse Ann in tono confidenziale. Penso che prima o poi finirà per perdonare, Dovi. Signorina Shirley, non ho mai visto nessuno uguale a lei per sapersi rigirare la gente con i discorsi, disse Rebecca Dew con ammirazione. Bisogna dire che ci sa proprio fare. Un'opera tentata e un'opera compiuta. Meritar fanno la notturna quiete. Citò Anna quella sera, salendo piena di stanchezza i 3 gradini per entrare nel letto. Ma che nessuno mi chieda mai più consigli su matrimoni e fughe d'amore.